volevo fare solo una piccola considerazione. Dal Milan e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Bravi, bravissimi. Un po' più applausi però, voglio sentire, eh. No, qualcosa di più. Roberto Scaltritti in regia. Così va meglio. L'applauso e la bolgia che avete sentito vanno ovviamente al Milan per quanto ha fatto ieri sera, ma vanno anche a voi, cari amici convocati, che almeno a quelli che ieri ci hanno creduto. Ma dico, il Milan non è spacciato, perché io dico 70 Barcellona e 30 Milan. Non è così, io dico, non è vittima sacrificale, perché le partite vanno giocate. Lo so anch'io che il Barcellona è più forte, ma mica è detto che la più forte vinca. Io sono milanista, ho chiamato subitissimo. Ci credo, la palla è tonda, non siamo favoriti, quindi meglio. Ma guarda, è il mio regalo di compleanno, l'amico con cui vado ogni partita che si è visto insieme. E comunque non abbiamo mai visto perdere il Milan quando si era insieme, quindi chi lo sa. No, ci sarà. Veramente Gagliani ha ragione, messo io su più vicino, ma no, il Milan è stato come vittima sacrificale. Io non credo che sia proprio così. Nonostante la forza del Barcellona, penso che il Milan possa regalarci una sorpresa. Beh, bravi amici convocati, anche oggi vi aspetto qui, 800 24 00 24, milanisti e non. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Il Milan del tanto spernacchiato Allegri come l'Inter di Mourinho? Vi voglio chiedere questo, piano con le parole direte voi, quell'Inter era più forte, ma questa vittoria inimmaginabile ha tanti figli, Muntari, Boateng che hanno segnato, Ambrosini, insomma la squadra intera che ha giocato una partita perfetta, ma soprattutto un padre, Massimiliano Allegri, che la partita perfetta l'aveva immaginata. Stefano Eranio, 5 anni, 3 campionati, una Coppa dei Campioni con il Milan, 4-0 proprio col Barcellona. Non è andato sotto così come risultato, ma io non ho mai visto il Barcellona andare sotto in questo modo, nell'era moderna. Sì, hai ragione, intanto buongiorno a tutti. Ciao Stefano. Hai ragione, anch'io sono rimasto perché sulla carta, naturalmente, come me, tanti tifosi, se non tutti, si pensava comunque a una debacle, il fatto che il Barcellona si presentasse con la miglior formazione. Il Milan, un po' per caratteristiche, è comunque una formazione sicuramente inferiore. Invece sul campo hanno dimostrato che la squadra sta crescendo, Allegri ha fatto un ottimo lavoro e tatticamente è stato perfetto, perché ha concesso poco, anche dicendo che fisicamente il Barcellona l'ho visto veramente male, sì. E non all'altezza in certi singoli che di solito fanno la differenza, proprio sbagliando anche le cose più banali. Perciò tutto questo ha fatto sì che il Milan vincesse meritatamente 2-0. Sì, lezione di Mourinho, piramide difensiva, Pazzini al vertice, sulla linea di centrocampo, nel cerchio di centrocampo, vertice di questa piramide, due linee molto vicine, metà campo occupata militarmente con grande concentrazione, forza fisica, servivano i muscoli di Montari, Boateng, Costanza, Zapata, insomma è esattamente il modo in cui si affronta e si batte il Barcellona secondo la lezione di Mourinho. Ma no, quello è sicuro, anche perché le volte che questa squadra è andata in difficoltà, anche con lo stesso Chelsea, pur creando comunque tanto, perché poi la qualità è talmente alta che pur giocando una partita perfetta tatticamente, il singolo come Messi, Xavi, Iniesta possono dal cilindro tirare fuori un qualcosa di particolare. Però quando invece ti gira che sono esseri umani, non hanno la serata, soprattutto questi elementi eccelsa, rischi, perché poi non hanno varianti di gioco, loro passano centralmente, cercano di andare in porta con la palla, e se le due linee, come sono stati perfetti quelli del Milan, non ti concedono spazi centralmente, non hanno una variante, un cross sulla fascia, andare a cercare altre vie, perciò diventa semplice in queste serate non concedere nulla al Barcellona. Sì, non credo che sia del tutto finita, penso che il Milan abbia bisogno di un gol a Barcellona, ma è una squadra con le idee molto chiare adesso. Certo, sanno che parte del praticamente se cerchi di attenderli e non dare spazi tra le due linee, limiti tanto questa squadra. È normale che a Barcellona sarà certo un'altra storia, bisognerà soffrire fino all'ultimo, però sono convinto che con una concentrazione come è stata quella di ieri sera, sei comunque parti dal 2-0, che non è poco. Stefano, ti faccio un'ultima domanda, da ex giocatore o da allenatore, come preferisci, l'assenza di un allenatore in panchina quanto pesa? Ha pesato anche su questo Barcellona? E poi aggiungo, questo Barcellona dà qualche segno da fine ciclo? Ma io dico che io avevo negli occhi il Barcellona di Pepe Guardiola, che spesso e volentieri cambiava anche modo di giocare, però ieri sera sono rimasto un po' per come si muoveva la squadra, no? A parte che erano molto lenti, e devo dire che questo è anche merito del Milan, che occupando tanti spazi diventa difficile da fare velocità, però proprio certi movimenti, il non sfruttare le fasce, che è sempre stata una loro caratteristica, anche il fatto di allargare molto il gioco, devo dire terzini molto fermi, questo penso che sia o un problema fisico, pronto, sì. o sicuramente il fatto di non avere le più chiare come un tempo, anche se comunque sta primeggiando nel campionato spagnolo, sta vincendo a mani basse, questo, però il Barcellona di ieri sera non è stato il solito Barcellona. Perciò questo secondo me è anche dovuto al fatto che alcune idee, alcuni accorgimenti dalla panchina la partita si possono cambiare. Sì. Grazie Stefano. Grazie a voi. Buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao. Ciao, Crespi. Ciao, ciao. Grazie a Stefano Eranio. Fuori la voce adesso, 800 24 0024, parliamo di Milan, di Inter, di derby, di Giro d'Italia che parte da Dublino. Perché, mi chiedono, parte da Dublino, da Belfast, comunque dall'Irlanda, due tappe a Belfast e una a Dublino. Perché? Naturalmente per fare cassa, le ragioni sono abbastanza ovvie, anche se sottaciute, però sono ovvie. Comunque, di tutto quello che volete parleremo da qui fino alle 15. 800 24 0024, convocati sempre. Tutti convocati. Attenzione blocchi, il pallone per Montolivo. La girata a rete! Boateng! Il Milan è in vantaggio! La palla in verticale per Nyang. Gira per El Shaarawy. L'apertura, attenzione, Montari! Rete! Rete! Rete! Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Credo che la squadra, credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria, credo che abbiano subito veramente poco e niente. Dispiace perché alla fine un pochino più lucidi potevamo andare a cercare il 3-0, soprattutto dopo il 2-0 loro hanno subito un momento di sbandamento e c'è stata una palla dove c'era Puyol da solo contro due di noi che abbiamo sbagliato il passaggio. L'ultima volta che Traoré ha tirato in porta c'era Niang da solo. Sono situazioni che devi uccidere gli avversari, perché altrimenti poi dopo al ritorno diventa tutto più difficile, soprattutto contro il Barcellona. A sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Bisogna fare gol perché loro soprattutto in casa hanno una media realizzativa importante, quindi bisognerà fare una partita corta, bisognerà fare una partita secondo me anche migliore di quella di stasera nella fase offensiva. Tra una botta che prendo e una botta che do. Aggiungo che non c'è stato bisogno della marcatura uomo su Messi. No, ma è, anzi, questo credo che sia una vittoria dei ragazzi innanzitutto, della società, del presidente. Credo che il Milan abbia avuto la forza e il coraggio, soprattutto nei momenti di difficoltà all'inizio, quando avevamo solamente 7 punti, innanzitutto di tenere me e non cambiarmi, e poi di ricostruire, di dar fiducia a questi ragazzi e soprattutto di mettere un innesto importante come è stato a gennaio quello di Balotelli. Ragazzi, sarà stata la vittoria dei ragazzi, anche del presidente, come ha detto Allegri, e poi ha aggiunto, innanzitutto ha tenuto me. C'è chi mi scrive, mi fate morire da ridere con gli sms, eh? C'è chi da Parma mi scrive adesso Allegri dovrebbe andare da Berlusconi e dimettersi, questo mi sembra eccessivo. È stata la vittoria, come ha detto Allegri, di tutti quanti, però è stata soprattutto la sua. Non so se su questo siete d'accordo. C'è Simone su Twitter che dice: dopo un inizio di trasmissione così ti bolleranno come milanista, mi bollino come ne hanno voglia. Io sto parlando di una grande impresa sportiva che è inimmaginabile, impronosticabile, infatti i pronostici li sbaglio sempre. E non è questa una novità, la novità è che il Milan ha la seria possibilità di far fuori il Barcellona, cioè la squadra più forte, glamour, inattaccabile, almeno così sembrava, d'Europa. C'è anche Mauro che scrive: sembrava la Roma di Luis Enrique, tanto possesso palla, zero tiri in porta, bravo Milan a chiudere e ripartire. Ma il modo per affrontare il Barcellona è quello, non come fanno spesso le squadre spagnole che insomma che si stendono come tappeti sotto i piedi di Messi e compagni. Maurizio Padova, buongiorno. Buongiorno Carlo, io sono a rientro da Barcellona dopo aver visto la partita ieri a Barcellona. A Barcellona, sì, perché ero a casa di un mio collega a Barcellona. Io sono interista, tengo a precisare, sì. Comunque ho visto un grande Milan ieri sera proprio con un cuore grandissimo e un grande coraggio. Sembrava l'Inter di Mourinho. Esatto, esattamente. E poi quello che mi ha divertito più di tutti è stata la faccia del mio collega quando ha preso il primo gol e la delusione poi del secondo gol, che lì poi è diventato un patatrack generale, tra l'altro. Sì. Ero l'unico italiano poi lì in mezzo, si figuri cosa è successo poi ieri sera. Spero tutto bene. È una cosa che sia finita. Sì, no, ma hanno fatto i complimenti, veramente. Ma ci mancherebbe. Però un Barcellona irriconoscibile. Guardi, il Barcellona così io non l'ho mai visto. Da che è il Barcellona, è il grande Barcellona degli ultimi anni, cioè una squadra epocale. Io così non l'ho mai visto, nemmeno quando ha perso. Pedro ha detto è una partita che ha comprato il Milan al Barcellona, chissà sì, quanto gli ha offerto. Sì, ma guardi, io ho un messaggio di questo tipo: se salta fuori che Berlusconi l'ha comprata questa partita perché il Barcellona non poteva giocare in modo così schifoso, mi scrive un ascoltatore che di Verona. Vabbè, lasciamo perdere le battute perché non credo che il Barcellona abbia bisogno di vendere una Champions League. Pierluigi, provincia di Como, non c'è. Massimo, Bari. Buonasera. Salve, signor Carlo. Salve, ciao. Vorrei innanzitutto fare i complimenti per la sua trasmissione, anche perché in risposta a molti ascoltatori a me piace anche la musica che devi mettere. Parliamo, diciamo, ci divertiamo dicendo cose serie. Ma sì, non guasta in una società così. Poi, qualche volta ci prendiamo anche un po' in giro, eh? Io, voi, me, perché, cosa che mi piace. No? Io vorrei dire con di cuore, veramente, io sono un tifoso di Juventino, ma di cuore, hanno giocato, ieri ho visto quella partita, è stata, secondo me il Milan ci ha messo il cuore, l'agonismo, e non è detto che sempre i migliori devono vincere. Ieri i migliori secondo me però sono stati il Milan. Sì, nel calcio no, nel calcio non sempre vincono i più forti, ed è per questo che è un gioco che spacca, che è un gioco che è un gioco che ama tutto il mondo, proprio perché questo succede, proprio perché nel calcio le cose impossibili possono succedere, il regno dell'irrealtà, no? Ieri sera ti aspetti un Milan fatto a pezzi dal Barcellona e invece accade esattamente il contrario, con Allegri che fa bene a dire potevamo dargli anche il terzo e ammazzarli, cosa che non è accaduta. Io torno a ripetere su questa qualificazione, insomma, non è ancora in banca questa qualificazione perché credo che anche il Barcellona scombinato, lento, fuori forma di ieri sera sarà altra cosa in casa sua. Il Milan non dovrà altro che, cioè, non dovrà far altro, non è una cosa semplice, molto più da dire che non da fare, dovrà cercare di ripetere esattamente la partita che ha fatto ieri, questa insuperabile piramide difensiva con una squadra cortissima dalla metà campo indietro, dare la palla al Barcellona, prego giocatela, provate a bucarci, provate voi a trovare gli spazi, provate voi a fare gol, e il Barcellona così si incarta, ma è ormai un segreto di Pulcinella che è scoperto da molti anni. Il Chelsea l'anno scorso lo ha messo in pratica alla lettera e infatti ha passato il turno ed è andato a vincere la Champions League. Io non credo che questo Milan, nonostante la partita di ieri sera, abbia la potenzialità per vincere la Champions League. Sarebbe meraviglioso giocare un altro turno. Non credo che il Milan, che questo Milan possa andare oltre per qualità, però come mi insegnate voi, nel calcio certe volte i miracoli succedono. 800 24 00 24, sono interista ma sono contento. 349 238 6666 per questi messaggi. Cresce il naso come Pinocchio a questo interista che si dice contento, non se ne può più di questo tiki taka che è riferito al gioco del Barcellona. In effetti, appunto, quando anche le gambe vengono meno, come è successo ieri, una condizione fisica che non esiste, che non immaginavo fosse così scarsa, l'assenza dell'allenatore che pesa tantissimo anche per una squadra come il Barcellona, insomma ci sono tanti fattori dentro questa partita secondo me. Massimo Brescia, buongiorno. Buongiorno a te, convocato. Convocatissimo Massimo. Devo dire che ieri sera ho visto il Milan di 3 anni fa, solo che il Milan aveva la maglia del Barcellona e il Barcellona aveva la maglia del Milan. A proposito di maglie, mai visto niente di peggiore della maglia della divisa del Barcellona. Chi ha disegnato quella divisa dovrebbe quantomeno beccarsi una causa. Sì, un fiammiferaio danese probabilmente. Il fiammiferaio, diciamo, il fiammiferaio che, danese, sì sì. Sì, diciamo che il Milan 3 anni fa dicevano che non correva, non aveva campioni, o comunque c'erano dei campioni ma un po' vecchi. Abbiamo visto invece ieri sera i giovani campioni che correvano disparati, e soprattutto dei grandissimi campioni del Barcellona, un po' logori forse, demotivati. Sì, un po' logori, demotivati. Non dimentichiamo che l'età corre anche per loro. Xabi, se non ricordo male, ha 33, Pujol è anche più vecchio. Poi c'è anche un discorso di lunga militanza, no? Giocatori che sono lì dall'intera carriera, e sapete bene Iniesta, Busquets, Pedro, magari anche gente molto giovane. Però io comincio a pensare che una volta andato via il padre vero di questo Barcellona, e cioè Pep Guardiola, si è scelta la linea della dolce continuità con Villanueva, che purtroppo ha avuto questi problemi e non è una sfiga da poco. Forse in casi come questo, quando, come successe come non successe con Mourinho e l'Inter, sarebbe meglio prendere coraggio a due mani e operare una rottura con il passato. Io credo che il mito del Barcellona abbia bisogno di una bella rinfrescata. Perché non ci sono gli ascoltatori che erano in linea? Dove sono andati? Sono sono spariti sotto la neve, ma comunque vi aspetto, tempo ne abbiamo. 800 24 00 24 è il numero verde. Intanto abbiamo delle dichiarazioni di Galliani di oggi. Abbiamo anche l'arbitro del derby. Allora, Galliani oggi ha detto: la gabbia su Messi ha funzionato. Dopo una notte insonne per l'adrenalina, Adriano Galliani rende i meriti a Massimiliano Allegri e non potrebbe fare altrimenti. Ha indovinato la partita, i giocatori l'hanno interpretata con carattere straordinario, è stata una delle grandissime partite europee del Milan, ma il discorso qualificazione non è chiuso, anche se Messi ancora una volta non ha brillato contro una squadra italiana. Sì, perché noi lo sappiamo prendere, anche Di Matteo ha saputo come costruirgli questa gabbia addosso, come limitarne la fantasia, come farlo rendere come un giocatore normale, quando un giocatore normale non sarà mai. Allora, tanto finestra sul derby perché c'è l'arbitro, a chi piace, a chi no, non importa perché tanto sarà lui. Paolo Mazzoleni di Bergamo dirigerà Inter-Milan della settima di ritorno domenica sera. Per la Juventus, che gioca in casa con il Siena, c'è Celi. Udinese, Napoli, che si gioca lunedì, sarà di D'Amato, di Barletta. Questi gli arbitri per la prossima giornata. Molto curioso anche di vedere l'Inter questa sera con il Cluj. Poco turnover, perché Stramaccioni non ha, onestamente, giocatori da mettere in campo. L'Inter deve difendere un 2-0, a questo punto è importante per l'Inter continuare a fare strada in Europa League. Il risultato può essere portato a casa, però sinceramente io da tempo non ricordavo una favorita così chiara nel derby di Milano che si giocherà domenica sera. Ovviamente non è l'Inter, ma quella squadra che dopo un pugno di giornate era in zona retrocessione. Borsa, poi di nuovo qui. Sono arrivato in una squadra al top, quindi insomma una squadra come il Milan, insomma, non si può mai dire di no. Tutti convocati. Montolivo, tiro, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Io non so se qualche milanista ieri nel salotto di casa al gol di Boateng si è messo a fare come Tiziano Crudeli, non credo, o almeno no, spero di no. Intanto c'è Silvio Berlusconi che parla ancora, ma lascia stare il suo allenatore, nel senso, dice: ieri sera abbiamo battuto senza neanche troppa fatica, con una superba prova, al Barcellona, la squadra più forte del mondo. Scudetto tra Juve e Napoli, scelgo il Milan. Oggi siamo terzi in classifica e possiamo arrivare ancora più avanti. Dopo le prime giornate di campionato la nostra squadra era data per spacciata, addirittura c'era chi diceva che avrebbe faticato a salvarsi. La stampa sportiva, che spesso è obiettiva più o meno come quella politica, si sprecava in ironie sul rinnovamento e sulla scelta di puntare sui giovani che avevo personalmente voluto. I sarcasmi sull'allenatore dell'Edil Nord non si contavano, eppure il fatto di essere il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio dovrebbe suggerire ai miei critici di essere un po' più prudenti. Dunque, niente elogi per Allegri, ma tanti elogi per se stesso Silvio Berlusconi, o quantomeno una sua difesa. Andiamo in Spagna dal ligantropo della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, con un lato, In che senso con un lato? Un lato del ligantropo. Con un lato solo? Sì. L'altro no, spunta di notte. No, un lato, esatto. Ascolta Filippo, non mi ricordo una sconfitta così rampante del Barcellona. Oggi io leggo disastro, è la parola più ricorrente mi pare sulla stampa di oggi. Sì, no, è una sconfitta che fa molto male, perché non se l'aspettavano. Non perdevano con due gol di scarto dal 3-1 dell'Inter di Mourinho del 2010, e fanno una gran fatica a rimontare. Infatti, guarda, appena finita la conferenza stampa di Xavi, che dice: a questa squadra ciò che manca è proprio una grande rimonta. Vediamo se si torna a parlare di remontada qualche anno dopo. Sì. Esatto. Torna la parola remontada. È il titolo di Sport, con la O in catalano, con la U in, sì, con la O in castigliano, con la U in catalano. E sì, e si attaccano a questo. Xavi avrà nominato il campo in questa sua conferenza stampa almeno 10 volte. Dicono: il Camp Nou ci sarà il campo perfetto, quindi la palla andrà via liscia. E quindi loro sperano di insistere con il loro possesso palla, e che alla fine toccala di qua, toccala di là. Sperano di scardinare piano difensivo del Milan. Però sappiamo bene che la cosa non gli è riuscita né con l'Inter, né col Chelsea, né col Celtic, e via dicendo. In solo Champions League è un'altra cosa. Sì, esatto. Cioè, ascolta, partite, tu devi pensare 0-0 col Benfica, è l'unico 0-0 della stagione, e hanno perso 1-0 a Glasgow col Celtic e 2-0 col Milan. Tre partite senza far gol. Questa è una squadra che prima di San Siro aveva 2.94 gol di media segnati, No, quindi vuol dire che in Europa è un'altra storia. In Europa è un'altra storia. Abbiamo fatto uno squillo a Roura, allenatore del Barcellona, almeno allenatore temporaneo del Barça, uno che mi sembra non ci capisca poi tantissimo, ha detto queste cose. Ne estamos absolutamente convencidos de que vamos a pasar a la eliminatoria porque jugamos en casa, porque nuestra gente nos va a apoyar como hace siempre, porque con nuestro terreno de juego, que ya lo he repetido varias veces, no tiene nada que ver con este que había aquí, creo que impropio de un partido de estas características, y tenemos la absoluta confianza de que podremos solventar la eliminatoria. ¿Cosa que ha dicho? Tu che sai... la solita presunzione, esatto. siamo sicuri di farcela, soprattutto perché giocheremo su un campo perfetto e non come quello di questa sera, un campo improprio di questa grande competizione. Perché questo vuol dire che su quel campo improprio ci gioca solo il Barcellona, no? C'è l'altra squadra, non gioca, non ha bisogno di un campo proprio. No, ma c'è che anche chi sostiene mi fa girare le scatole, perché voglio dire, il Milan è una squadra che fa schifo e quindi può giocare su il patatal, come lo chiamano qua. Noi invece, che siamo dei fenomeni, sul patatal soffriamo. No, ma si potrebbe anche fare rovesciare il discorso, no? Sul, come si chiama? Patapal. Sul patapal potrebbero anche emergere le maggiori doti tecniche di chi è dotato, no? Non è detto che esatto, il patapal sia favorevole a chi deve esatto, difendersi. Io sono scarso e su una palla, un campo da biliardo devo toccare la palla 4 volte per controllarla. Praticamente sul patatal ce ne metterò 8 che esatto. La controlli al primo e magari ce ne metti solo 3 e quindi esatto. Sei molto più rapido. No, questa è una cosa veramente patetica, te lo posso dire senza mezzi termini, cioè non si riesce a spiegare. E poi abbiamo visto il campo del Celtic, che era bagnato come piace a loro, no? Perché questi innaffiano lì, figurati, a Glasgow la pioggia non manca, e andava, era il campo era perfetto tutta, e non mi sembra che le cose siano andate molto meglio. Anzi, hanno perso con una squadra che è sicuramente inferiore al Milan, per cui non lo so, loro hanno probabilmente sottovalutato l'avversario e poi non hanno quello che qua chiamano il plan B, cioè il piano B, cioè loro sanno fare solo una cosa. Sì. Ieri comunque Roura, telecomandato o no, ha fatto un solo cambio, il cambio certo. Di Sanchez, che poi tutti sappiamo, cioè tutti, chi sta qua sa che è in una forma pessima, non segna neanche a pagamento e via dicendo. Una cosa sola che mi sembra giusto, sia doveroso dire nei confronti del Barça. Già hanno assorbito il cambio Guardiola Villanova, cosa non semplice. In più, il povero Villanova se ne va a New York, e poi non è che se ne va lì in gita, va lì a farsi della chemioterapia, della radioterapia, e uno rischia la vita perché no, c'è il cancro e tutto. È chiaro che questo può influire, perché sto povero Roura, tu dici sì, non è che magari non mi sembra che ci capisca tanto, però non era il suo mestiere, nel senso che fino alla triade è il terzo allenatore, vabbè, facciamo un secondo, adesso addirittura il primo, sì. È un chiedergli troppo sicuramente. Sì. Questo va tenuto in considerazione, la squadra secondo me soffre lì, ieri non aveva altre idee, mancava uno che gli desse una scossa dalla panchina, qualcosa, insomma, e questo va detto. Sì, io vedo i messaggi, sono presuntuosi, il Barça giustamente paga l'arroganza con cui è sceso in campo, poi con quelle divise dove voleva andare, scrive Marco, e io tutti i torti non glieli do perché raramente ho visto una maglietta così brutta su un campo il di solero, calcio. Il Solero, sì, ma anche qui è stata orrore, già orrore, messa in mezzo. Orrore totale. Sì. No, vabbè, queste sono le grandi compagnie che fanno come gli pare, va bene così, insomma. Non so, se vogliono farsi degli autogol, liberissimi, una roba schifosa. Sì, no, ma lì non entriamo. Però, ripeto, ieri c'è la differenza tra le partite del Barça col Celtic e il Chelsea, è enorme, o l'Inter al ritorno al Camp Nou, è enorme, è stato enorme. Ieri nel secondo tempo, cioè il Milan, nel primo tempo si è difesa, ha parcheggiato l'autobus, come dicono qua, va bene, però poi nel secondo tempo l'autobus già era andato verso il Camp Nou, non c'era più, ha fatto una partita clamorosa, cioè, tatticamente ieri Allegri ha fatto ha stravinto, ma infatti è quello che dico, è il papà vero di questa vittoria, perché ha capito e soprattutto ha attuato e ha realizzato esattamente tutto quello che serviva per far fare questa pessima figura al Barcellona. Filippo, un'ultima cosa, un po' brutale magari, mi sembra una squadra, non ti dico a fine ciclo, ma che ha bisogno di un rinnovamento, il mito ha bisogno di una rinfrescata. Nel campionato spagnolo Messi può bastare, in Champions no, e l'hai sottolineato tu già diverse volte, da Glasgow al Chelsea a ieri sera con il Milan. Forse non era meglio, dopo che è andato via, a proposito di padri, il padre vero di questo Barcellona, cioè Pep Guardiola, dare uno strappo piuttosto che continuare dolcemente su quella china? No, secondo me era già stato troppo traumatico l'addio di Guardiola per cambiare poi tutto. Secondo me no, questo invece secondo loro non ha azzeccato. Vediamo come va a finire, nel senso che vinceranno la Liga sicuramente con largo margine. C'è questa semifinale di martedì prossimo, che adesso comincia ad acquisire un significato bello grosso col Real Madrid, semifinale di Coppa del Re. E la squadra per me non è a fine ciclo, perché poi molti sono giovani, però è senza allenatore no, cioè non ce la può fare, ha bisogno di, ieri non lo so, tu vedi che comunque Xavi magari non gira, non so, prova con Thiago che è un giovane, cioè mancano delle, ieri sono mancate delle alternative, sì. Cioè il migliore alla fine è stato Puyol, sì. Insomma non è un caso, io dico non si può assolutamente parlare di fine ciclo. È chiaro che serve qualcosa di più in Europa. Cioè, anche lì, Messi contro le italiane non ha mai fatto gol su azione. Mi sembra siano 9 o 10 partite. Sì, allora, contaci anche quelle con il Chelsea allenato da un italiano. Esatto, vogliamo cioè, conterà qualcosa, no? Conterà qualcosa, sì. Cioè, è chiaro che bisogna... Cioè, però io dico no, per me non è da capire. Loro, secondo me, hanno seguito la loro strada e va bene, perché comunque adesso è stata una partita andata male. Ce ne sono state altre, però questa è una squadra comunque che gioca molto bene, è un piacere vederla. Adesso su questo non discuto, Filippo. Però la situazione, ieri ha preso una lezione. Io vorrei ricordare la difesa, cioè era Abate, no, Mexes, Zapata e Constant. Esatto. Che giocavi contro una squadra che aveva quasi 3 gol di media a partita. Per me è un miracolo. E nella seconda parte non ha neanche sofferto. Poi, ovviamente, non abbiamo menzionato il fallo di mano, perché ovviamente questo c'entra anche. Giustamente attaccati parecchio anche al. Se non dà il primo gol, le cose possono cambiare. No, ma è evidente, ma sai, gli episodi fanno parte, sono parte integrante di questa serata, e quindi dopo il campo che era un patatal, se ti attacchi pure all'arbitro, veramente vai a nasconderti dietro il paravento di una partita che non hai giocato, in cui ti hanno messo in gabbia e ti hanno rullato come non ho mai visto fare al Barcellona in questi anni. Filippo, grazie, ci sentiamo presto. Ciao Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Allora adesso abbiamo il traffico e poi 800240024 abbiamo le vostre voci. Tutti convocati. Vi voglio tutti qui convocati al telefono 800240024. Poi non dite che non presto ascolto a quanto dite. Abbiamo aperto con gli ascoltatori di ieri, milanisti fiduciosi, e forse erano gli unici ad esserlo, non quelli che sono intervenuti, ma quelli milanisti veri, oltre ad Allegri che che giustamente ci credeva. Cosimo da Taranto, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. Senta, io intanto le premetto che sono un grande ignorante per quanto riguarda il calcio, per cui ascolto soltanto questa ritrasmissione, non vedo altro di calcio. Ieri ho guardato la partita perché sì, era Milan-Barcellona, volevo vedere il Barcellona, volevo vedere. Viva l'ignoranza in materia di pallone! Ma è un gioco, tanti fanno i professori, ma insomma io arrivo al punto da dover uscire dall'ufficio il lunedì o il giorno dopo le Champions, perché è diventato davvero l'unico parlare infrequentabile, eh? Sì, ma è diventato l'unico argomento di cui si parla il giorno dopo le partite. Va bene, ma comunque io mi sono guardato ieri la partita perché volevo vedere sto Barcellona che giocava, il Milan, come reagiva, eccetera, eccetera. Onestamente, da grande ignorante, quello che ho visto è stato una squadra che era tutta da una parte, un'altra che prendeva i palloni addosso come un muro, e poi ripartiva e ha segnato i due gol che ha segnato. Ma questo io poi in una riflessione personale ho detto, ma questo lo fa anche mio figlio, cioè si chiude in difesa, non riesce a far giocare la palla all'avversario, è normale che poi abbia delle occasioni in 90 minuti che possa fare due gol. Però se io devo parlare di spettacolo ieri, io onestamente io spettacolo non ho visto, una partita noiosa. Per me non è stato noioso affatto, Cosimo. Se lei per spettacolo intende quelle partite finiscono 4-3, quelle con molti gol, molta corsa, magari quelle agonisticamente accese come era stato Celtic Juventus, questa era un'altra roba forse più da intenditori, anche perché io non credo che suo figlio, magari è bravissimo e gli auguro un futuro da campione se vuole giocare a calcio, c'è stata tanta sostanza in quello che ha fatto il Milan, perché non è semplice giocare una partita di quel tipo, ci vogliono le gambe, ci vuole una concentrazione mostruosa, ci vuole grande applicazione. Giocare una partita di quel tipo non è facile, ed è l'unico modo, perché se ti metti a giocare a calcio con il Barcellona ne prendi 8, come fanno in Spagna, vanno a giocare a calcio con il Barcellona perché la loro cultura impone questo. Benissimo, vai lì e le partite finiscono 8-0 con 4 gol di Messi. Il Barcellona, Se vuoi batterlo, devi giocare in questa maniera. Gli consegni il pallone, loro fanno 70% di possesso palla con i loro tocchetti, però dove vanno? Si schiantano contro il tuo muro. E allora lì è giusto dire che poi qualche occasione, se hai un paio di giocatori bravi, almeno, e il Milan ne ha qualcuno in più, allora te ne crei, come ha fatto il Milan. Paolo Rimini. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere stato convocato. Sempre convocato. Com'è il tempo lì? Niente, piove, nuvoloso. Insomma, non piove in questo momento, però è nuvoloso. Meglio che qua che nevica. Comunque. Sta nevicando. Sì. Bene. No, niente, io sono un tifoso interista, però come vivo il calcio quotidianamente, sono contento che il Milan abbia vinto, perché non si può non essere però mi state un po' annoiando. Interisti, io vedo un sacco di interisti contenti, ma com'è sta storia? Avete fatto amicizia, avete fatto comunella, voi gli interisti, voi gli milanisti, vivendo lo sport e poi sentendo quello che le parole dell'allenatore del Barcellona prima, sono ancora più contento che il Milan abbia vinto, devo essere sincero. Sì. Anche se sono deluso dall'Inter, adesso spero domenica in un miracolo, ma sono miracoli, sono deluso. Due a settimana un po' tanto, a questo punto. L'avevo vista Bologna, sinceramente mi aveva fatto una buona impressione, però si reggeva sull'asse Samuel, Cambiasso, Milito, che erano grosso modo i più importanti, no? Basti andare a vedere la media punti dell'Inter con Milito, mi pare fosse 2.5, mentre media punti dell'Inter senza El Principe scende sotto il punto, mi sembra 0.9, ma poi me lo faccio dire da Franco Piantanida, che in queste cose sa tutto. Allora, adesso, prima di Michele da Bari, con chi chiuderemo il programma, Europa League oggi, tra speranze, partite impossibili e possibili battaglie come quelle della Lazio. Allora, Stramaccioni, Mazzari e Petkovic. Il bello e il brutto, diciamo, di allenare l'Inter è che questa pressione che fa parte di questo fantastico mondo del calcio ce l'ho dal primo giorno in cui alleno l'Inter. Se un allenatore a questo livello ragiona pensando queste cose, è finito ancora prima di cominciare. Ma interpreto io questo mestiere da sempre, non so perdere, non so, ci sto male quando perdo, figuriamoci quando vengo eliminato, però il contrario, di fare qualcosa di straordinario domani con i miei ragazzi. Lazio che entra concentrata, consapevole, che dimostra questo valore che abbiamo sempre avuto in casa, trascinato da del cornice del pubblico, e Lazio che deve andare per vincere la partita. E questa sera capiremo tutto. Il Napoli naturalmente andrà fuori, non credo alle parole di Mazzarri. Stramaccioni avrà le sue difficoltà nel gestire questa partita contro Cluj, che è una squadra vera. Petkovic, dopo quel 3-3, che volete che vi dica? È chiaro che alla Lazio basta uno 0-0, ma 0-0 non sarà. Sarà una partita molto dura quella col Borussia Mönchengladbach. Dunque, vedo degli ottimisti a oltranza eccessivi. Maurizio, Milan-Juve in finale a Londra. Maurizio, no, non credo. Per me la grande favorita di questa Champions League è il Bayern di Monaco, ma ne avremo modo e tempo per parlare anche di questo. Michele da Bari, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti per la trasmissione. Niente, io praticamente l'ascolto sempre, però ieri c'è stato un ascoltatore che ha praticamente fatto un pronostico 3-1 in favore del Milan, non so se ricorda. Io devo dire che quando l'ho ascoltato ci credevo, sono milanista e ieri sera devo dire che ho visto un gran bel Milan, cioè partita perfetta. I miei complimenti sono per l'allenatore, perché grazie al rinnovamento anche, cioè il Milan secondo me ha vinto perché in campo c'ha anche dei giovani che si sacrificano tanto per la squadra, cioè ho visto il Sharawi, lo stesso Niang quando è entrato, sì, sì. Cioè fanno un lavoro che onestamente... Ah, ma è chiaro, ma appunto non si dimentichi che per battere il Barcellona Samuel Eto'o ha fatto il terzino. Questa è storia, no? Non lo inventa nessuno. È chiaro che per battere Barcellona ci vogliono giocatori giovani o meno, certamente con la gamba, e che si facciano un mazzo così. Dunque, ultimi due messaggi. Sono interista, spero che il Milan passi e venga affogato dagli irrigatori del Camp Nou, scrive Guido. Mentre ieri sera Patroclo da Treviso: ho gufato come un cane, odio Allegri, ma ieri sera è stato impeccabile. Occio, che vuol dire occhio al ritorno. Ci fermiamo qui, torniamo domani con tutti i convocati. Franco Piantanide, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Ho parlato con mister Allegri ieri. Io credo che Messi vada bloccato attraverso una difesa a uomo. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po